Benvenuti, questo è Ragù di Scienza, episodio numero 9. Io sono Alessandro, con me, come al solito, il patatosissimo Adrian di Link for Universe. Ciao ragazzi, piacere di essere qui. E la vera Rubin del nostro podcast, Elisa Nichelli. Addirittura, ciao a tutti. Ma questa volta c'è un altro ingrediente nel nostro calderone. È un mio carissimo amico, ricercatore presso la spin-off dell'Università di Milano Bicocca Galatea Biotech, dottorando presso l'Università di Milano Bicocca, autore del libro Peropli geneticamente modificati, viaggio nel mondo delle biotecnologie, che ha appena vinto il premio dell'Associazione Italiana del Libro per il miglior libro divulgativo scritto da un under 35. Abbiamo con noi Stefano Bertacchi. Ciao a tutti, ciao, grazie per avermi invitato. Tu so che sei un grandissimo fan di questo podcast, non ti perdi una puntata, per cui sai come funziona. Certamente. Però per il pubblico a casa, che magari è la prima puntata che apre perché è attirata dal tuo nome... Come biasimarli. Ragù di Scienza è un podcast a forma libera e improvvisato, per cui ogni puntata uno di noi a turno porta un fatto, una notizia, un evento, un racconto, una storia, e da lì ci lanciamo in collegamenti, voli pindarici, associazioni di idee di vario tipo, parliamo di tutto quello che viene fuori finché il calderone non è pieno e dobbiamo dare un nome a questo piatto. Questa volta il nostro ospite Stefano, che si è preparato benissimo per questa situazione, ha qualcosa di cui parlarci, giusto? Io direi, tra l'altro, aspetta a dire grazie Stefano, cioè datti del tempo. Ah, ok. Ma io mi fido sulla fiducia. Malissimo. No, invece fa benissimo. Beh, ok. Sì, l'argomento di cui sicuramente posso parlare è ciò di cui mi occupo, ovvero le biotecnologie. In particolare mi occupo di biotecnologie industriali. Se le biotecnologie hanno come scopo generale quello di riuscire a in qualche modo utilizzare le capacità degli esseri viventi di fare cose straordinarie e interessanti, nelle biotecnologie industriali lo scopo principale è appunto quello di riuscire a ottenere dei prodotti di interesse merceologico, principalmente per andare a sostituire la classica filiera petrolchimica, che sappiamo essere onerosa dal punto di vista ambientale, sia per l'utilizzo di una risorsa che è in esaurimento, sia anche per il fatto che è inquinante di per sé. Questo perché? Perché già le cellule, soprattutto i microrganismi di cui io mi occupo di batteri, lieviti, sono in grado di trasformare delle materie prime, che noi chiamiamo biomasse, che sono rinnovabili, in diversi materiali di interesse, che possono essere delle bioplastiche, dei biocarburanti, ma anche dei farmaci, degli enzimi che possono servire per la detergenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io principalmente mi occupo di questo ambito, di cui spesso non si parla, perché nelle biotecnologie si parla, la maggior parte dei casi, delle biotecnologie mediche, quindi le applicazioni nell'ambito sanitario, come per esempio la terapia genica, oppure ancora delle biotecnologie agrarie, quindi della modificazione, principalmente modificazione genetica delle piante. La cosa divertente è che c'è anche un codice colore, cioè le biotecnologie mediche sono rosse, chiaramente riferimento a sangue, le biotecnologie agrarie sono verdi, mentre le nostre sono bianche, non ho mai capito perché, però va bene. E appunto modificazione genetica è uno degli elementi importanti nel tutto, ma è una tematica scottante. Volevo solo far notare, specialmente a Elisa, che questa volta siamo due biocosi contro due. Guarda, ci riflettevo proprio oggi e questa cosa mi preoccupava abbastanza. Mi sono preparata psicologicamente, ma non so se sono pronta. Tra l'altro, mi sono dimenticato di precisarlo nella sua introduzione, ma Bertacchi è un membro del team Panettone, importantissimo da dire, vista la puntata dell'ultima volta. Questo è importantissimo. E questa cosa è ancora più grave, se vogliamo dirlo, perché cioè, già due contro due biocosi, però Questa cosa del panettone mi turba, non so se sarò in grado di andare oltre questa Guarda, puntata, su questo cioè, sei tra l'altro da sola, perché io mi associo assolutamente. Grande Adrian! Betrayal! Vabbè, Elisa, puoi sempre uscire dal collegamento, ciao, è stato bello, la prossima puntata. No, la cosa che vi vorrei far notare, riflettevo mentre tu parlavi, questa cosa del codice colore la so perché ovviamente ho letto il tuo libro, che ricordiamo, poi magari ne parleremo meglio più avanti, però ci terrei a ricordare a voi cari biocosi che se non ci fossero le stelle che cucinano al loro interno gli elementi chimici più complessi dell'idrogeno e dell'elio, voi avreste ben poco di cui occuparvi. E con questa badabum, direi che ho segnato un punto a mio favore. Ciao, ciao, ciao, ciao. Giusto. Due volte, cioè c'è la nucleosintesi stellare e poi quando una stella esplode ogni tanto, cioè Stefano, quanti microorganismi ci abbiamo addosso? Ti prego non dire che ci sono più cellule di quelle che abbiamo noi, perché non è più vero. No, ma sono tantissimi sia fuori che dentro, soprattutto nella microflora intestinale. Ci sono una quantità di batteri che anzi sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, tantissimi lattobacilli, il famoso Escherichia coli, sono anche necessari per la nostra salute. Poi ci sono tantissimi studi che hanno analizzato la microflora, per esempio, dell'ombelico, che può sembrare una cavolata, ma anche lì ce ne sono tanti. Diciamo che in altri microrganismi, in altri animali soprattutto, sono fondamentali per la digestione di matrici complesse, come per esempio nel caso delle termiti. Questi sono in grado di mangiarsi il legno alla grande, perché i batteri intestinali che vi sono in grado molto bene di spaccare le molecole complesse che ci sono all'interno di questi substrati, appunto, di queste biomasse molto legnose. La convivenza con questi microrganismi è fondamentale, altrimenti non saremmo qui neanche noi a parlarne. Ah, ecco, infatti ti faccio io una domanda che mi è venuta in mente. Vai. Secondo te, se trovassimo un altro pianeta, diciamo anche fuori dal sistema solare, così non c'è proprio il rischio di una contaminazione o altro, sarebbe, immagini che possa esserci qualcosa di commestibile per noi lì, o viceversa, no, noi o qualcosa qui sarebbe commestibile per organismi viventi lì? Allora, beh, questa è una domanda interessante, perché chiaramente gli esseri viventi hanno subito il processo di evoluzione in coesistenza uno con l'altro, quindi c'è anche un discorso di coevoluzione. Quindi questa cosa non la darei scontata, ma anche non la darei scontata sul fatto che, per esempio, noi quando andare a cercare forme di vita, magari microbiche, su altri pianeti, andiamo a cercare quelli basati su, per esempio, sul carbonio, come siamo abituati a vederlo noi, perché è la forma di vita che vediamo, quella che abbiamo intorno. Non è detto che questa sia l'unica possibilmente possibile. Certamente non possiamo andare a cercare una cosa che non sappiamo neanche come sia fatta, è complicato, quindi cerchiamo ciò che è simile a quello che abbiamo intorno. Ovviamente potrebbe anche essere che ci possano essere delle cose lì, anche ipotizzando che siano delle tra virgolette piante, magari queste non sono nemmeno compatibili con il nostro tratto gastrointestinale, per dire, ma non c'è neanche bisogno spesso di andare su un altro pianeta, anche già soltanto sul nostro pianeta ci sono tanti ambienti che per l'uomo stesso potrebbero essere, anzi sono assolutamente ostili, magari altissime temperature o bassissime temperature, ma i microrganismi sono stati in grado di colonizzare tutti questi ambienti da 120 gradi centigradi fino a meno 10, meno 20 in Antartide, per esempio. Quindi sicuramente quando si studia poi l'astrobiologia si va ad andare a cercare, a studiare quelli che sulla Terra noi chiamiamo estremofili, cioè che vivono in condizioni che per noi umani sono estreme. Vedi Adrian, tu chiedi di evoluzione a un biotecnologo, che è il peccato originale, ma Bertacchi per fortuna è preparato anche su quello. me la sono scampata. Il pizzino che ho qua mi ha salvato. No, perché comunque... io immaginavo che comunque, essendo alla fine, poi magari sarebbero cose che sono state sviluppate qui, che si sono evolute qui per... in maniera simile, come si aspetta, per convergenza, ecco, non mi veniva la parola. Potrebbe essere che in maniera simile la, che ne so, strutture di fibre muscolari sono talmente vantaggiose che cose simili, non la stessa cosa, ma magari cose simili possano evolversi anche in cose, in ambienti completamente diversi, per cui potresti tipo farti un bacon di un alieno allo stesso modo in cui ne fai di qui. Solo che allo stesso tempo poi dopo è talmente... cioè, molta della roba che c'è qui non è commestibile ed è si è evoluta qui, con noi, quindi... Non lo so. Che sarebbe un po' un peccato dover portare il cibo da casa per gli astronauti che vanno a esplorare altri pianeti. Potessimo mangiare direttamente gli abitanti lì. Quello sicuro. Sì, mangiarsi il cibo da casa è decisamente meglio. Beh, però comunque sicuramente una cosa che bisogna tenere in considerazione... e che l'evoluzione si basa su mutazioni casuali, quindi c'è anche un elemento di casualità importante. Poi sì, ci sono alcuni casi di evoluzioni convergenti che hanno portato a esseri viventi distanti fra loro geograficamente, che non sono mai entrati in contatto fra loro, a sviluppare delle strategie di sopravvivenza simili in ambienti simili. Poi non c'è mai, cioè è sbagliato parlare di una logica, ovviamente una logica non c'è, non c'è neanche un discorso di è assolutamente vantaggioso, cioè in termine assoluto è complicato, sono tutti fattori ambientali da considerare, i fattori ambientali da considerare sono tantissimi e alcuni non li consideriamo neanche, come tipo il pH del terreno, che è una cosa che noi magari fisicamente non vediamo, perché magari ci soffermiamo sul fatto che faccia caldo, faccia freddo meno, ma già quello è un elemento importantissimo, che il pH sia acido, basico, cambia tutto. E soprattutto i microrganismi hanno sviluppato delle strategie di sopravvivenza affascinanti per sopravvivere appunto in questi ambienti, che anzi per noi biotechnologi possono essere spunto per riuscire a introdurre delle nuove tecnologie, prendendo appunto ispirazione a ciò che già la natura che ci circonda ci offre. Sicuramente tutti i fan di Adrian, visto che di solito me la fanno a me questa domanda, ma adesso ci abbiamo un biotecnologo, possiamo girarla, si stanno chiedendo cosa si può fare per portare forme di vita su Marte e renderla abitabile, o quantomeno. C'è appena stato ad esempio un bellissimo studio in cui hanno, usando il suolo simulato di Marte preso dalle Hawaii, l'hanno riempito di metalli pesanti, non di perclorati perché è più complicato, e ci hanno fatto crescere i lombrichi, e se ci metti i lombrichi e il letame viene su le piante anche nel terreno marziano. Ovviamente Marte è un po' più complicato, magari si possono usare tecniche diverse. Sì. Beh, per quanto riguarda il perclorato che tu hai detto, in particolare c'è questo progetto di ingegneria genetica dell'IGEM, che diciamo è una sorta di progetto internazionale che coinvolge diversi centri appunto in tutto il mondo, di biotecnologie, in particolare di biologia sintetica. Essenzialmente appunto è perclorato uno dei principali inquinanti che si può trovare su Marte, e questo si accumulerebbe dal suolo alle piante che eventualmente un giorno coltiveremo su Marte, e questo poi è tossico per l'uomo quando noi ce le mangiamo. L'obiettivo è quello di modificare geneticamente il batterio Escherichia coli per far sì che questo in qualche modo detossifichi il terreno dal perclorato, cioè lo trasformi in un'altra molecola sempre clorata, ma che non è tossica o che non è assorbita allo stesso livello dalle piante. E la cosa divertente è che questo batterio, che sono stati inseriti dei, mi pare, 3 geni di altri batteri, siccome il batterio si chiama Escherichia coli o E. coli, che è quello che vive nel nostro intestino, uno di quelli che vive nel nostro intestino, questo è stato chiamato E-colonizer. Quindi anche questa divertente, a me è piaciuto tantissimo anche il nome. E quindi quello che stanno cercando di capire è se esso è in grado di effettivamente degradare il perclorato. E in questo ambito diciamo che loro lo pubblicizzano per riuscire ad andare a colonizzare Marte, però come spesso accade negli studi di astronomia, astrofisica, esplorazione spaziale, tante ricerche possono essere poi anche applicate oggi stesso sulla Terra, perché purtroppo per l'attività dell'uomo, per l'attività delle industrie, di alcune industrie, soprattutto della chimica pesante, abbiamo un inquinamento di perclorato in molti suoli, anche sulla Terra. Quindi questo batterio, che è stato pensato, diciamo, come idea che dal punto di vista pubblicitario funziona molto bene, poi con un nome così accattivante, per colonizzare Marte, può essere prima testato sulla Terra per vedere se effettivamente è in grado di detossificare questi terreni. Quindi ancora una volta una spinta che può essere dovuta all'esplorazione spaziale può servire di molto a salvaguardare in questo caso l'ambiente. E questo va anche nella direzione del fatto che non è vero che OGM e ambiente sono due cose che non vanno d'accordo, perché questo è chiaramente un esempio in cui le due cose vanno a braccetto, anche se siamo ancora in uno stadio iniziale in cui è stato recentemente soltanto ingegnerizzato il microorganismo, mi pare nei Paesi Bassi, se ricordo bene, o in Belgio, comunque lì. Giusto per tirare in mezzo Elisa, che sennò è lì che lo vedo che si sta guardando Netflix. Così impara a mangiare il pandoro. Bisognerebbe mettere un po' di perclorati nel suo pandoro. Adrian lo conosce di sicuro, la trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson. Bertacchi è un finto nerd, per cui faccio finta di niente. Sì. Ma è una serie di libri di fantascienza in cui progressivamente si colonizza Marte, Marte rosso, Marte verde, Marte blu. E una cosa che ho trovato molto interessante, e su cui voglio sentire l'opinione di Elisa, è il fatto che ad un certo punto, quando si tratta di terraformare Marte, cioè trasformare Marte in qualcosa che sia più simile alla Terra, c'è comunque una fazione che è contraria a questa procedura, che Marte ha un valore intrinseco in sé, per cui io e Bertacchi sospetto che siamo d'accordo, siamo degli stupidi biologi, o biocosi. Io sono un biotecnologo. Siamo dei biocosi, per cui non c'è vita, bisogna fare spazio alla vita. Ma vorrei sentire le opinioni di Elisa e Adrian su quest'idea. È eticamente ammissibile terraformare Marte? Assolutamente sì, dal mio punto di vista, nel senso che sì. Allora, attenzione, a meno che tu non arrivi su Marte, scopri che ci sono forme di vita e tu spazi via le forme di vita precedenti per occupare un terreno e appropriartene, cosa che mi sembra di suoni qualche campanello di colonizzazione passata. Cioè, se stai colonizzando un terreno che altrimenti è deserto, io sono assolutamente favorevole. Un'altra cosa che invece mi veniva in mente di chiedere a voi biocosi, che siete oggi molto numerosi, è cosa pensate... Siamo il doppio rispetto al solito. 100% più. Il doppio rispetto al solito, sono veramente turbata. No, cosa pensate rispetto alla possibilità di trovare vita su satelliti ciccioni del nostro sistema solare, come per esempio Europa, Encelado? Cioè, esistono possibilità di trovare forme di vita al di sotto di croste ghiacciate? Ci sono vari elementi a favore di questo. In questo caso, che tipo di vita ci aspettiamo, secondo voi? Ho rigirato la domanda, forse magari hai fatto tre domande una dentro l'altra, fai rispondere Adrian che... Ho fatto tre domande una dentro l'altra, sì, oggi sono molto creativa. No, allora, secondo me, per quanto riguarda Marte e la terraformazione, credo sia fondamentalmente la parte più importante quella di valutarlo, cioè deve essere una cosa che facciamo con una scelta... in cui dibattiamo di questa cosa, ne parliamo e decidiamo insieme. Non deve essere una cosa e facciamo e poi dopo ci penseremo poi più tardi. Quindi poi dopo, se decidiamo di farlo o non farlo, è già diverso, perché comunque sarà una decisione che magari dipenderà dalle prossime generazioni, quindi comunque noi gettiamo più che altro le basi a livello di strumentazione, no? Dubito che sarà una cosa che toccherà a noi. Più che altro noi quello che possiamo fare è creare questo ambiente, questa abitudine sana e importante anche nella scienza, visto che abbiamo fatto nelle puntate precedenti, abbiamo parlato anche di come la scienza ha bisogno di dibattiti per l'etica delle scelte che vengono fatte dalle persone che sono umani e quindi possono tranquillamente lavorare per Hitler o per il più nobile degli obiettivi. Per cui è importante creare un ambiente in cui parliamo dell'etica dietro le decisioni che facciamo. Detto questo, la vita è incredibilmente trasformativa per un pianeta. Anche a un livello per cui poi è difficile trovare tracce di come era prima. Per cui se su Marte non c'è vita, non è detto che la prima cosa che potremmo fare è portare vita, e non è detto che sia subito un vantaggio, perché abbiamo un intero pianeta dove non c'è mai stata vita, dove non hai contaminazioni e rompimenti di palle da parte della vita, e puoi studiare l'evoluzione di un pianeta terrestre senza avere la vita di mezzo che ti contamina ogni cosa. Non è male come occasione, e potrebbe non essere facile trovare un analogo da studiare così facilmente, perché Venere è molto più difficile da studiare sulla superficie. Per cui Marte, secondo me, per i prossimi secoli, anche se comunque, come insomma abbiamo detto, difficilmente avremo comunque l'occasione di terraformarlo subito, però dovremmo prenderci un pochino di tempo per studiarlo, per conoscerlo a fondo prima di trasformarlo in un modo che sarà per sempre diverso. Con la Luna vale la stessa cosa, anche per quanto riguarda la Luna, per esempio, negli anni 60 ci furono delle ipotesi per bombardarla con bombe nucleari. Come si faceva con tutto negli anni 60? Perché? Così! È una bella domanda. Una delle idee iniziali era, invece di fare il progetto Apollo, di lanciare una gigantesca bomba a idrogeno e farla esplodere sulla Luna, abbastanza potente da far vedere ai cittadini nelle piazze l'esplosione la notte. Quindi te potevi uscire la notte e vedere sulla Luna un puntino bianco e dire la mia nazione certo che è avanti. E ovviamente è stato scartato, è appena trapelato per la stampa. Cosa potrebbe andare storto d'altronde? Sì, esatto. Però i scienziati si sono ribellati, perché... Che tra l'altro ha iniziato un filone di filmografia su testate nucleari che vengono mandate sul Sole, sul centro nucleo del terrestre, su un po' tutto nel mondo, diciamo che ha creato cioè, questa fantasia della testata nucleare che esplode facendo come se fosse un fuoco d'artificio, è abbastanza comune. E niente, così. Quindi in quel caso, se tu lanci una bomba atomica, come diceva Elon Musk tempo fa per sciogliere i ghiacci di Marte con testate nucleari, in teoria, a livello così da cartone animato Acme con i Willy Coyote, può potenzialmente funzionare, perché comunque vabbè, riscaldi abbastanza i poli, liberi il ghiaccio, aumenta la densità dell'atmosfera, quello fa sì che possa rimanerci acqua liquida sulla superficie e hai per un po' di tempo un ambiente ospitale. Però allo stesso tempo tutta quella radiazione si sedimenta ovunque, quindi tutti gli isotopi che tu trovi sul pianeta sono falsati, quindi tutte le tracce su tutta la storia del pianeta è falsata dal fatto che l'hai bombardata di radiazioni. Niente, ti ritrovi sotto casa con ondate di geologi incazzati e loro hanno sassi, quindi possono farti molto male. L'ultima fazione con cui vuoi avere a che fare, già sono arrabbiati perché molti dicono che la geologia non è una scienza. ma siccome qui i geologi non sono rappresentati, questa cosa qua, dopo torniamo alla vita su Marte eccetera, ma questa cosa qua che tu dici, quando lanci le bombe atomiche inquini per sempre gli isotopi radioattivi, c'è uno studio abbastanza famoso e bellissimo della fine degli anni 90, mi sembra, quando ancora non eravamo sicuri se il cervello da adulto generasse nuovi neuroni o meno, che è stato risolto proprio grazie a questa cosa, nel senso, abbiamo ormai buttato e testato talmente tante bombe atomiche nell'atmosfera terrestre che abbiamo leggermente cambiato la distribuzione degli isotopi di carbonio 14. Per cui se tu vai facendo l'analisi isotopica di cervelli a vari gradi, livelli di età, di gente che ha passato la vita attorno ai test atomici, puoi vedere che i neuroni incorporano più atomi con isotopi di carbonio 14, carbonio radioattivo, che è stato arricchito nell'atmosfera grazie alle bombe atomiche. E in questo modo siamo riusciti a dimostrare che si generavano nuovi neuroni, che è una cosa piuttosto, piuttosto strana. Però questa è la solita tangente che prendiamo. Abbiamo un ospite, facciamolo, sfruttiamolo. Stefano, la domanda che ti ha fatto Elisa tipo 8 minuti fa sulla vita sulle lune di Giove o non di Giove, comunque sulle lune strane subacquee. Sì, pare anche Encelado, se ricordo bene, Saturno. Allora, sicuramente la risposta è non lo sappiamo, semplicemente perché non essendo ancora andati là a vedere non possiamo sapere. Certo è che, come dicevo prima ad Adrian, quello che ci aspettiamo è qualcosa di simile a quello che abbiamo qui, quindi sicuramente tendenzialmente forme di vita microbiche, quindi probabilmente nessuno si aspetta di trovare dei pesci, aperte le virgolette, sempre che pesci si possano chiamare chiaramente, quindi un qualcosa di microscopico, unicellulare, ovviamente quello più probabile. Questo perché appunto, come dicevo prima, la stragrande maggioranza degli estremofili sono dei microrganismi, perché diciamo che essendo piccoli hanno anche una flessibilità genetica e metabolica tale da permettere loro un'evoluzione anche abbastanza veloce, degli adattamenti particolari in questi ambienti estremi. Quindi meno io come io, se dovessi puntare su un organismo che c'è sul nostro pianeta, che ci ritroviamo su Encelado, punterei su un batterio, per dire. Poi ovvio che uno solo. Però chiaramente se si dovessero trovare dei microrganismi da qualche parte, che sia una luna qualunque e così via, sicuramente io ci vorrei mettere le mani, più che altro perché mi interesserebbe capire come si è evoluto, quindi magari ha dentro degli enzimi particolari che possono essere straordinariamente utili per la nostra vita sul pianeta Terra, quindi io da tecnologo lo vedo anche molto da questo punto di vista, cioè mi interesserebbe capire immediatamente come è fatto il genoma, che cosa ha dentro, se ha qualcosa di particolare, di diverso rispetto a quello che è sulla Terra, però anche lì quello che farei io subito è un confronto con quello che abbiamo già, cioè noi abbiamo su internet dei repository in cui ci sono i genomi, i geni, tutti gli organismi conosciuti di cui si conosce il genoma o di cui si conoscono i geni, e poi andare a fare un allineamento immediato con tutto ciò che è noto, quindi ipotizzando di sapere il genoma del batterio che vive su Encelado, lo puoi allineare con o blastare, perché è il termine tecnico che usiamo noi, anche se sull'internet ha un altro significato, perché il programma si chiama Blast semplicemente, allinearlo con tutto ciò che è noto, e quindi lì fai un confronto. Però come spesso accade, il confronto ha lo svantaggio del fatto che dipende da quello con cui lo confronti, quindi non sapendo che cosa andiamo a trovare c'è questa problematica. Però sicuramente è affascinante e interessante. Stai facendo un assunto enorme nel tuo ragionamento, che non solo assumi che gli amici enceladiani, facciamo, perché se il pianeta in cui è più probabile trovare qualcosa è quello, pianeta, luna, scusate. Sì. Beh, ha detto pianeta. La luna in cui è più probabile beccare qualcosa è quella. Fa lo stesso, gli vogliamo bene lo stesso. Ne ho dette di peggio sicuramente in questi 9 episodi. Non solo che ci sia vita basata sul DNA, che, oddio, certo, non è così improbabile. Io sono abbastanza sicuro che non sia così difficile che ci sia, che sorga la vita da chimica prebiotica, perché comunque sulla Terra è comparsa quasi immediatamente dopo che era fisicamente possibile che comparisse. Però l'altro step in più, a cui tanta gente non pensa, è che abbia lo stesso codice genetico. Ah sì, assolutamente. Perché sì, sì, sì, sono Invece lì, secondo me, c'è molto più, c'è molto più cose su cui giocare, perché il codice genetico delle forme di vita sulla Terra si dice che è degenerato, perché ci sono, ad esempio, tante combinazioni. Il codice genetico, quando devi trasformarlo in, in proteine, viene letto 3 a 3. Ma queste parole di tre lettere, la maggior parte sono sinonime, perché puoi fare 4 alla terza combinazioni, ma gli aminoacidi che la vita sulla Terra usa sono solo 21. 20 per la maggior parte degli organismi, il 21esimo è la selenocisteina, che fino agli anni 90 non sapevamo neanche ci fosse qualche forma di vita che la usava. Adesso abbiamo trovato un microorganismo che la fa. Però questo è solo una delle tante cose che cambiano, ovvero potresti cambiare completamente il tipo che delle parole che usi, potrebbe cambiare completamente la grammatica che usi, nel senso che ci sono del, oltre a il fatto che viene letto a 3 a 3, ci sono dei momenti in cui ci sono delle parti che tagli, delle parti che non tagli, delle parti che fermano la lettura, e anche lì è molto importante. Quando... Non solo, ma adesso vi faccio io invece una domanda sull'etica, perché prima si parlava del fatto di terraformare Marte, ed è giustissimo domandarsi se Marte sia o meno d'accordo, anche perché siamo nell'epoca in cui ci occupiamo moltissimo di ciò che è molestia, ciò che è occupare terreno altrui senza aver prima chiesto il permesso. Ma nel caso in cui... puta caso arriviamo a poter fare una missione spaziale che si occupi di Europa, di Encelado e di trapanare qua e là o raccogliere campioni qua e là, stiamo andando a veramente a mettere le mani in altre forme di, su altre forme di vita, ok, va bene, primordiali, più o meno elementari, però non lo so, lì comincia a esserci un discorso di cosa è giusto fare, come interagire con queste forme di vita. Beh, Tacchi, rispondi prima tu, poi io rispondo l'opposto di quello che dici. Ah, ottimo, molto bene. Sicuramente sì, cioè è un argomento spinoso. Soprattutto perché non sappiamo, come dicevo prima, a che cosa stiamo andando incontro. Per esempio, un'altra cosa che non... e quindi è difficile anche mettersi lì e decidere, perché non sai neanche quali sono tutte le opzioni possibili, perché puoi anche mettere tutte in lista, ma magari avviene una cosa totalmente diversa. Per esempio, una cosa in cui magari a volte non ce ne rendiamo conto, ma chi si occupa di viaggi spaziali ha iniziato bene a pensarlo, è il rischio di noi contaminare Marte, per dire, mandando là il rover, ci portiamo dietro dei batteri che poi dopo finiscono là e poi diciamo, otto, guarda, c'è la vita su Marte, uno, e quindi poi dopo mandiamo le agenzie in giro ed è una bufala clamorosa, e due, rischiamo anche, come diceva prima Adrian, di sconquassare completamente l'equilibrio del pianeta, anche se l'assunto che in questo caso viene fatto è che quel batterio lì sia in grado di sopravvivere in quelle condizioni, che magari mette piede, no, pseudopodo sul pianeta, la capita solo lui, è battuta ovviamente, sul pianeta, e magari muore all'istante praticamente, perché magari nell'atmosfera c'è una cosa che per lui è tossico e così via, cioè per dire. L'ossigeno per molti microrganismi è tossico, se vedono una molecola di ossigeno muoiono, per dire, senza neanche andare tanto lontano. Quindi sicuramente ci sono delle questioni etiche dietro da considerare, soprattutto come risorsa biologica. Bisognerebbe parlarne, sapere cosa fare, ma appunto, ripeto, il problema e anche alla luce di tutti gli assunti che giustamente Alessandro ha elencato, io soprattutto dal presupposto che troveremo là un qualcosa che è analogo a quello che c'è sul nostro pianeta, ma ovviamente così non è, ma purtroppo non sappiamo cosa aspettarci, essendo qualcosa che potrebbe essere totalmente diverso da quello che normalmente è sul nostro pianeta. Ora rispondi Alessandro al contrario di quello che ho detto. Allora, Vediamo come riesco ad argomentare questa cosa che mi hai fregato, quello che volevo dire. Non c'è niente di particolare nella vita che gli dia una particolare dignità in più delle rocce di Marte. Cioè adesso noi siamo non solo antropocentrici, non solo specisti, siamo anche terrestrocentrici e vediamo la vita come se fosse una cosa particolare e speciale, diversa dalla non vita, ma è perché siamo noi che abbiamo il cervello e decidiamo, certo, collettivamente che è una cosa così. Un fuoco ruggente come quello che c'è adesso in questo periodo a Los Angeles ha un metabolismo di qualche genere, se vuoi avere una definizione abbastanza larga di metabolismo, ma non se li fa questi problemi. Per cui, per coerenza, se dobbiamo dire che non ce ne frega niente di smantellare le rocce di Marte che sono state lì per 5 miliardi di anni o giù di lì e farne razzi per andare a rompere da un'altra parte, allora perché trattare in maniera speciale tre molecolette con dentro il carbonio su Encelado? No, allora siamo nichilisti fino in fondo. Neanche la vita ha valore, già ce l'ha raramente sulla Terra, figuriamoci quella aliena. C'è un'altra opzione comunque per uscire da questa impasse, ed è la possibilità che la vita come la possiamo immaginare noi in futuro non debba per forza avere necessità di un pianeta o una luna. Cioè, buona parte della Terra per noi è completamente inutile, ci serve tutta la Terra praticamente soltanto perché in questo modo puoi avere abbastanza pressione, densità, eccetera, per avere anche condizioni con, che ne so, trattenere un'atmosfera, avere un campo magnetico, eccetera. Se tu riesci ad avere quegli effetti in un qualcosa, per esempio, come un anello, che puoi spostare da una parte all'altra, quello è molto più comodo. Cioè potresti tranquillamente avere una superficie grande quanto quella che hai dei continenti terrestri in un ambiente, in un anello che porti appena sei, che ne so, una stella inizia a fare le bizze, dà problemi eccetera, la porti altrove. Quindi ovviamente a noi risulta completamente impossibile da immaginare a livello tecnologico per come la pensiamo noi. Sto dicendo di come potrebbe essere il progresso della vita su scale molti ordini di magnitudo più grandi rispetto a ora. E Asimov ha avuto un'idea bella quando ha immaginato nel ciclo della fondazione che la vita che fa parte di questo universo è imparentata tutta tra di loro. Quindi non c'era vita in quest'angolo qui, è nata sulla Terra, gli umani hanno iniziato a portarla fuori, gli umani si sono belle estinti da un pezzo come Homo sapiens sapiens, sono rimasti però tracce ovunque di forme di vita che noi abbiamo portato. E se te porti un campione di forme di vita abbastanza grosso, che ne so, su Marte, anche se qui magari si estingue, da lì si apre un intero nuovo albero della vita e continua lì, cioè nuovo, imparentato ovviamente, un nuovo ramo della vita. Con abbastanza tempo potresti avere contaminazioni a partire dalla vita terrestre in vari posti e da lì in maniera esponenziale colonizzi un intero pezzo della galassia. Ovviamente stiamo parlando di miliardi di anni, però tanto, cioè per la vita dell'universo, come può confermare Elisa, quello che succede alla vita è veramente roba brevissima rispetto all'età dell'universo. E già, per esempio, Elisa vi può parlare di quanto può essere o meno vantaggioso più star vicino a una stella di una certa grandezza che può diventare, può letteralmente esplodere, non come il Sole che non esploderà. Quindi il nostro caso ci va bene, però altre stelle possono rilasciare una quantità spaventosa di energia alla fine e non vuoi essere nemmeno nelle vicinanze, ma nemmeno nelle vicinanze cosmiche, cioè, vuoi andare quanto più lontano possibile se vuoi sopravvivere. Sì, sì, ci sono quindi anche stelle piccole che emettono venti molto potenti. Il problema è se c'è un vento stellare molto forte, quindi in quel caso devi veramente proteggerti. Ormai, come si parlava anche, credo, nella scorsa puntata, delle zone di abitabilità, delle condizioni di possibile vita, ormai abbiamo scoperto, quello che abbiamo scoperto è che il paradigma non è il sistema solare, quindi che esistono tantissime altre soluzioni, situazioni, e che per immaginare la vita, e anche qui di nuovo torniamo ad essere, diciamo, terracentrici, perché noi le condizioni in cui ci poniamo è dire dobbiamo essere alla giusta distanza per avere dal punto di vista della temperatura, degli sbalzi di temperatura, quindi una possibilità di presenza dell'acqua allo stato liquido e del ciclo dell'acqua. Tutto questo ruota attorno al fatto di andare a cercare o ipotizzare forme di vita simili a quella terrestre, cosa che assolutamente non è scontato, visto che per esempio esiste, c'è una forte possibilità che esistano forme di vita per esempio attorno a satelliti di giganti o altre situazioni. Certo è, quello che sappiamo è quello che è le situazioni in cui è altamente improbabile che ci siano forme di vita, ovvero quando ci sono temperature esageratamente alte o quando ci sono temperature esageratamente basse, non ci sono, laddove non ci sono condizioni in cui neanche gli estremi vengono toccati, ecco. O quando non hai carbonio. Stiamo finendo il tempo, però prima che Adrian chiuda la puntata, io, visto che abbiamo qui Bertacchi come ospite, vorrei fargli parlare un po' di questo suo libro, Geneticamente Modificati, fargli fare una marchetta, sostanzialmente, giusto perché io, siccome sono un pessimo amico, l'ho preso quando è uscito 6 mesi fa, l'ho letto solo settimana scorsa, ma devo dire che è un ottimo libro, specialmente per se siete della nostra generazione, cioè quella prima di Elisa, e volete fare il regalo... Due prima di Elisa. Volete fare il regalo a loro, per cui... vendici questo libro, convinci la gente a leggerti. Va bene, grazie mille. Essenzialmente Geneticamente Modificati è un libro divulgativo della collana ai microscopi di Oepli, che ha lo scopo appunto di spiegare cosa sono le biotecnologie, quali sono i diversi aspetti, quali sono appunto alcune delle definizioni di OGM, transgenesi, editing genico, di cui spesso si sente parlare soprattutto nei giornali, nei telegiornali, ma anche sui social network, con un approccio che sia contemporaneamente didattico ma anche divulgativo, cioè partendo dalle basi della vita, quindi cos'è una cellula, cos'è il DNA, eccetera, eccetera, che sono prerequisiti fondamentali per capire questa scienza complicata, si passa poi ad affrontare le diverse tematiche connesse al biotech, che vanno alle biotech rosse, quelle verdi, ma soprattutto quelle industriali, a cui ho dedicato un capitolo intero. Soprattutto ho voluto anche dedicare molto spazio agli OGM, che è una tematica molto dibattuta, quali siano alcuni vantaggi, alcuni svantaggi, quali siano, diciamo, gli elementi che l'opinione pubblica prende in considerazione e anche alcune delle bufale che sono comuni sul tema, ma anche quali sono gli effetti o le ripercussioni delle biotecnologie nella società che viviamo oggi. Quindi le biotech in realtà hanno già cambiato il mondo che ci circonda, spesso senza nemmeno darcene notifica. Riuscire a capire in che modo è fondamentale. Sì, non hai detto che parli anche dei Pokémon e di Sailor Moon e di Piccinini, cioè non l'hai venduto bene, delle ragazze Miu Miu. Ma anche di Ritorno al Futuro, quindi sono cose... e anche dell'astrobiologia. Cioè, sei stato troppo serio? Vabbè, perché è un ragazzo modesto, non voleva strafare. Per cui io veramente ve lo consiglio, ve lo consiglierei, tanto non è che mi dà una percentuale, per cui anzi, non è che se faceva cagare glielo dicevo che faceva cagare. Me l'aspettavo. Voi non vedete il libro, ma sono quante? 820 pagine, giusto? 840? Sono 130. Volevo spaventare il pubblico con... un tomo enorme. No, sono 130, esatto. Pagine a capitolo. Sì, 130 pagine a capitolo, ovviamente, perché faccio una dissertazione di genomica e di biologia molecolare nel dettaglio universitario, proprio in modo che proprio il pubblico capisca, perché ovviamente così è pronto per fare un esame. Inizia proprio con siete dottorandi? No, allora esatto, passate direttamente alla pagina 750. Quindi sì, esattamente così, un tomo enorme che appunto raccoglie tutta questa tematica mettendoci dentro tanti elementi di cultura popolare, appunto dai Pokémon a piccinini a anche il Papa addirittura a un certo punto. E insomma c'è un po' di tutto, ho cercato di fare in modo di essere io che mi siedo di fianco al lettore e ti spiego un po' il mio mondo, raccontando anche alcune cose che mi sono successe, alcuni fatti da cui ho preso ispirazione per spiegare con degli esempi semplici e comprensibili a molte tematiche complicate. Quali sono? Siccome io non sono una biocosa, ma sono un'astrocosa, mi sento di consigliare il libro, perché addirittura anche io, che sono vecchia, come amiamo ricordare, e non mi occupo di biologia, addirittura io ho capito cosa c'era scritto, quindi insomma. Va, perfetto. Va bene. Data. Basta marchette che poi ci accusano di essere pro-industria. Adrian, chiudi la puntata. Ok. Allora, dato che abbiamo parlato, per fare un riassunto di le caratteristiche della vita, quali sarebbero le cose, per esempio, che potremmo trovare in altre forme di vita. Abbiamo parlato della possibilità che siano meno commestibili. Abbiamo cercato di fare un quadro generale di quale potrebbero essere le nostre spedizioni per cercare vita su Marte dal punto di vista etico, se sarebbe giusto o meno. E infine abbiamo parlato di enzimi, senza neanche dire che cosa sono, quindi se non sapete che cosa sono gli enzimi, a questo punto è tardi, è ormai è tardi, sapevatelo. E abbiamo, poi dopo, aspetta, vuoi dire al volo, hai tipo 5 secondi, cosa sono gli enzimi? Ok, gli enzimi sono delle proteine che fanno delle reazioni chimiche. E cosa sono le proteine? Proteine sono adesso come delle lunghe catene fatte di piccoli mattoncini chiamati aminoacidi, che sono costituenti, per esempio, dei capelli, delle unghie, eccetera, eccetera. E cosa sono gli aminoacidi? E se non vi eravate convinti prima di comprare il suo libro, a questo punto compratelo, no? Esatto, infatti se la sta alla grande. E comunque, insomma, la mia idea per concludere tutto quanto era dare il titolo, perché te non lo sai, ma tutte le volte diamo il titolo alla fine della puntata e cercando di mettere insieme vari pezzi del podcast, quindi chi ci ascolta sa già qual è il titolo, noi lo decidiamo solo alla fine. E la mia proposta, ditemi se vi va bene, è cervelli radioattivi alla conquista di Marte. È bellissima, non ci troveranno mai su Google, ma direi stupendo. Applauso, scatta l'applauso. Fa niente, andata. Per concludere passiamo ai saluti e iniziamo dalla nostra preferita Elisa. Ciao Elisa. Ciao a tutti ragazzi. Che ti possono trovare all'Agenzia Spaziale Italiana o durante le manifestazioni contro i panettoni per questo Natale, in piazza con i cartelloni. Poi abbiamo Alessandro Tavecchio, che trovate sul suo blog Prosopopea. Ciao ragazzi. E infine Stefano Bertacchi, che trovate nelle librerie con uno giaccone grande ad aprirlo sul lato e dire: ehi amico, la vuoi un libro di divulgazione? Esattamente così. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Grazie a voi come sempre e ci vediamo il prossimo venerdì per la 10ª puntata, e quindi festeggeremo e toccherà a me la prossima volta scegliere l'argomento di cui parlare, e quindi aspettatevi belle cose, cercherò qualcosa di particolarmente strano per festeggiare la 10ª puntata. Un abbraccio a tutti, continuate a essere meravigliosi. Ciao. Ciao. Abrázame fuerte, dale no me suerte. Taratata.